Desindivesa da subentu, d'ogni attiva ridu uguali, d'ogni addesti un utrumentu. Vessu calmut e domo, in cominza a camminai. Cicchendi con pancia gente, mai via voghi stionai. Gandullo un pidi si erru, spacciant estisi de soli. D'ogni attiva ridu uguali, vari di desimpresoni. Su l'unica cosa è vecchia, stai t'accente televisioni. Basta mezz'ora, scelte in concade, in un mattoni. C'è stivago occasioni, bobbe siri, pagu gana di arriri. Subentu è troppo vride, d'ogni addiri. Si incruzza sa giornale, notti gesco e tre meriri. Su soli non calente, stenta me da si vai viri. In saria si biriga sa stagione spacciara. Chi non è brusu tempo deve si rincambarara. Sa scuola incommentara, sa gente sti scallonara. Sa giornara non passa, sa situazione cambiara. Non sciughi si a bolara, si a durara sa mitadi. Gusti stadi e passare, tocca si rassegna e suvrari. Gusta e saberidari, nuda soli, nuda mari. Poni di sanimo in pace e pensa a crasi. Cando subente frilu, c'è pago gente in giro. Non pensi di su soli, accallentai gustu cammino. Spacciara su casino, non ci pensa e mi indifigo. Con su mari, bo vicino e con su rap unica amico. Cando subente frilu, c'è pago gente in giro. Non pensi di su soli, accallentai gustu cammino. Spacciara su casino, non ci pensa e mi indifigo. Con su mari, bo vicino e con su rap unica amico. Si stare a cappare, subentu frilu, suare scollasa. San rumori uruvari, musica e tui cantu portasa. Da esibiu su concerta palasa, dessa ventana. Con savara, noi in conca e con sa buca serrara, s'atmosfera è cambiata, sa gente in domma corrara, bessa mi vana, vacillara, fumendo in mezzo a sta strada, passo calmo, ma non buccia a sigaretta di rara, ma in giro c'è scelta gente con sa faccia incazzara, su frio su brittara intro chi respira sa gustaria, frisca e profumara che sa terra canta ingiusta, di narra ci pensai ed è vai sa cosa giusta, case di sumere domo, vuoi ta domo tua e custa, e chi su quando non curri ritocca rapica e sa frusta, comenza a si erru, si calmara su bordello, torra sa fai su desempri, custa e su cambiamento, lento su tempo, triru su bentu, pronto su schenfiu, figa se esempio, avarra attentu, a su scrammentu, a pizza nu fit cazzacara, tipo matteddu, stimola su giorbetta, regionai con su vuedu e moi, e spacciao su clima estivo de bikini, de femmia sa spollin casa con gana de spiriri, de gunne da samini, discoteca sa festa sa e gana de besiri, buffendi cuba libre, oran soda con martini, sperendi gano arribiri savini, cai noi con su vriu su doni adiri, non è prugosa di arriri, non si piri, manco nubi più giocando in su cotili, no du domandi sacchini, cibibiri e geduscini, cago stu tempo passare e tempo su de brazzini. Cando subente frilu, c'è pago gente in giro. Non pensi di su soli, accallentai con stu cammino. Spacciara su casino, non ci pensa e mi indifigo. Con su mari, bo vicino e con su rap unica amico. Cando subente frilu, c'è pago gente in giro. Non pensi di su soli, accallentai con stu cammino. Spacciara su casino, non ci pensa e mi indifigo. Con su mari, bo vicino e con su rap unica amico. Cando subente frilu, s'animu m'accusa seria. La traballa sa sclera, sa con sa conca ancora in feria. Sa ti frangi di su coru, pensendi a tutto i giornali. Sa de basca, passara, sa in fora. Sa vendica zarasa, senzi senzi in piazza qui in aria sa congelarasa. In giro cicchendi schienfiu sa perda sa furiarasa. E narasa che è sempre più difficili e imparasa. Comprendi su gioco de cosa fatta se la sarasa. Cando subente frilu, c'è pago gente in giro. Non pensi di su soli, accallentai con stu cammino. Spacciara su casino, non ci pensa e mi indifigo. Con su mari, bo vicino e con su rap unica amico. Cando subente frilu, c'è pago gente in giro. Non pensi di su soli, accallentai con stu cammino. Spacciara su casino, non ci pensa e mi indifigo. Con su mari, bo vicino e con su rap unica amico. We'll be right back.